Avventurieri, l'aquila vi ha condotti fino ai piedi delle montagne. Vi resta un ultimo sforzo. Il cammino verso l'ultima chiave comincia qui.